Ci sono momenti nei quali vorresti scappare. Ci sono momenti nei quali tutto sembra crollarti addosso e ti senti solo, troppo solo. In quegli attimi vorresti il paradiso che cerchi e non trovi perché non guardi dentro te stesso. Allora lo cerchi artificiale, ed è lì che ti frega. Qualsiasi sentimento o emozione che sia artificiale non dura molto e ti fa ripiombare nell'oscurità più impenetrabile. Ecco, qui sta l'errore massimo della nostra scelta. Apriamoci e guardiamo fuori di noi. C'è sempre una persona, anche la più insignificante che esista, che ha bisogno di noi e noi di loro. Parliamo, giochiamo e facciamo sbocciare quella cosa alla quale tutti noi diamo poco peso, ma che è alla base della vita. L'amicizia. Una parola stupida, derivata da amico, ma che ha dentro di sé una grandezza immane che può far sì che una montagna diventi un granellino di sabbia. Tutto o quasi nella vita artificiale, come la droga un surrogato della felicità, ma l'amicizia no. Puoi anche litigare con un amico e non parlargli più, ma prima o poi, quando lo vedi, lo saluti e speri che da parte sua arrivi un accenno di saluto. E sai perché? Perché essa è vera, un vero paradiso per l'anima, mentre la droga è solo un inferno travestito da paradiso. Scritto da Graziano Salvatori.